Io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra allora, un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. No, io penso che i fischi nel momento di essere lì dentro al campo, io almeno penso di non avere il tempo per pensare o per ascoltare quello che penso, soltanto alla partita, penso che pure i miei compagni lo fanno, quindi sicuramente saranno fischi di nervosismo, di voglia di cercare di ottenere questa vittoria. Probabilmente anche io stesso non avevo immaginato l'aver giocato due gare con quasi sempre gli stessi giocatori, e pur potendola io prevedere, secondo me non immaginavo che l'avremmo potuta pagare così, così tanto. Perché la gente è stanca, è gonfia di rabbia e non è una malattia. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Datemi, datemi, datemi un'altra identità. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Voglio, voglio un'altra possibilità. Voglio un'altra possibilità. Chissà se il Napoli ce l'avrà. 1° marzo, confronto diretto con la Juventus. Intanto i limiti li abbiamo visti. Per l'ennesima volta, non per la prima, non per la seconda, li abbiamo visti anche ieri. Giornataccia per Hamsik, pareggio, palo e pistola, come sapete. Tutti convocati, 800 24 0024, tutto lo spazio che volete, le voci che volete, oggi per voi. Intanto quella di Fulvio Collovati, che saluto e ringrazio. Ciao maestro. Ciao. Vabbè, addirittura mi chiami maestro. Poi maestro, professore, dai, della difesa, Fulvio. No, vabbè, so. Ti faccio fare mica il difensore campione del mondo, ma l'avvocato difensore del Napoli. Ma sì, beh, dai, insomma, diciamo, la partita si può anche sbagliare. Fa un po' strano, diciamo così, un po' che nel momento decisivo il Napoli, quando tutti si aspettano. Non so, giovedì c'è stata usiamo il termine vergognoso, vergognosa partita giocata in casa contro il Vittoria Pilsen, per cui una sconfitta, 3-0. Premeditato, secondo te? Per cui era premeditata? Abbastanza ipotizzabile una reazione contro la Sampdoria, oltretutto poi c'era lo stimolo di poter andare a 2 punti della Juve, così non è stato. Ecco, il Napoli ha sbagliato in questo, però insomma guardiamo anche l'aspetto positivo. Il Napoli rispetto all'anno scorso è l'unica che sta tenendo testa alla Juve, prima sì. Cosa. Rispetto all'anno scorso mi pare che abbia 13-14 punti in più, adesso non so, non sono un amante delle statistiche rispetto al campionato dello scorso anno, per cui forse troppa pressione, troppa l'ansia della vittoria, il valore dell'avversario, indubbiamente la Sampdoria non è più la Sampdoria di 6-7 partite fa, è una Sampdoria adesso è più equilibrata, è una squadra anche difficile da battere, ne sa qualcosa la Juve. Ma detto questo, è chiaro che ci si aspettava una vittoria del Napoli, per cui insomma ha deluso ieri, però insomma non mi sembra che dobbiamo criticare una squadra che in fondo se il campionato non è ancora chiuso lo dobbiamo a Napoli. No, non la critichiamo in funzione degli obiettivi che si vogliono e si dichiarano. Se si vuole vincere lo scudetto devi battere la Sampdoria ieri e sfruttare il jolly, ma questo è fuori discussione. Il quarto jolly che la Juventus si è giocata, e 4 sono tante, 4 sconfitte, certo. Sono tante, quindi senti, ti faccio fare ancora una cosa più difficile, l'avvocato difensore dell'Inter e di Stramaccioni. E qui un po' più difficile. Fai la faccia da Moratti. Fossi Moratti, una sconfitta nel derby costerebbe la panchina a Stramaccioni? Ma Moratti fa sempre delle scelte un po' inaspettate, potrebbe costare la panchina, indubbiamente, poi dipende come perdi, in che modo, potrebbe, però Moratti, quando sai che piace forse anche andare contro, per cui quando tutti probabilmente si aspetterebbero l'esonero di Stramaccioni, lui probabilmente insisterà su Stramaccioni, ecco tutto qui, però insomma non... Anche qui fammi fare un po' l'avvocato difensore, sì. Tu sai che io sono anche abbastanza critico su certe scelte, certo. Certi errori che indubbiamente questo giovane allenatore ha fatto, però insomma io punterei l'indice anche su chi ha fatto il mercato dell'Inter. Ma certo, ma certo. Cioè, io non penso che i 4-5 giocatori acquistati ultimamente, togliamo il ragazzino di 18 anni che potrà avere anche un ottimo futuro, ma il resto non sono giocatori da Inter. No, non c'è dubbio, sono giocatori normali. Cioè, il Milan prende Balotelli, l'Inter prende Rocchi, Schelotto. Rocchi ha fatto una buona carriera, ma Rocchi prende Guzmán, Jonathan, certo. Gargano, Mudingai. Ecco, con tutto il rispetto, penso che insomma un po' di perplessità si possono anche avere. Sì, un po' di perplessità si possono anche avere e ce l'abbiamo. Il discorso non è se l'Inter abbia un allenatore o non abbia un allenatore o abbia un allenatore da mandare via. Il discorso è se l'Inter abbia dei giocatori e non mi pare, perché tolto Milito che era il giocatore barometro e tolto Samuel che gli teneva in piedi la difesa, mi sembra che l'Inter sia poca cosa ma in valore assoluto. Non avesse una maglia nerazzurra ma quella rosa del Palermo, molti giocatori non verrebbero neanche presi in considerazione. Fulvio, un'ultima cosa, a parte che la Fiorentina, il primo tempo della Fiorentina di ieri è stata forse una delle cose più belle in assoluto che ho visto in questo campionato, sì. Conte ritira la panchina d'oro, abbiamo detto oggi, ritira il quarto jolly che aveva giocato. Io non ho sinceramente visto una Juventus in così grave crisi a Roma. Ma no, insomma, non usiamo la parola crisi. Una sconfitta ci può anche stare, è stata una Juve insolita, per quello che siamo abituati a vedere, però le statistiche dicono che dopo la vittoria 3-0 contro il Chelsea è venuta l'inaspettata vittoria contro il Milan, sì. Dopo il 3-0 contro il Celtic, al Celtic Park, è venuta la sconfitta contro la Roma. Questo cosa significa? Significa che anche Conte comincia a capire cosa significa avere due impegni nel giro di settimanali. Vuol dire lui che è abituato a tenere sempre la squadra sotto pressione, perché la Juve, al di là della qualità dei giocatori, è una squadra che gioca con intensità, con organizzazione, ha le individualità ma ha più l'organizzazione di gioco rispetto all'individualità, e quando vengono a mancare quelle la squadra era scarica contro la Roma. Per cui insomma non è assolutamente crisi, se parliamo di crisi di una squadra Ma cioè, nel senso che io comunque vedo una Juventus che rispetto a un mese fa è molto più tonica fisicamente, intendo. Però questo. Vedi la Juve, il problema rispetto, prima parlavamo dell'Inter, è chiaro che sono due mondi diversi, però dall'Inter ci si aspetta, ricordi la partita di Siena, certo. Stramaccioni ci aveva detto questa sarà l'ultima partita che giocheremo in questo modo, cioè male. Poi dopo è successo quello che è successo ieri. La Juve pochissime volte sbaglia, per cui l'immediata reazione ci sarà sicuramente. Grazie Fulvio. Grazie a te. Ti abbraccio. Ciao Carlo. Ciao. Grazie a Fulvio Collovati, tra l'altro oggi 18° anniversario della presidenza Moratti. È un giorno importantissimo per Radio 24, che andatelo a vedere subito o appena potete in online il nuovo sito radio24.it, cui ovviamente collaboreremo in maniera molto stretta. 800 24 00 24, però adesso, cari miei, aspetto voi dopo il traffico. Fiorentina di ogni squadra, tu sei la regina, Fiorentina. Tutti convocati. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Tutti, ma proprio tutti convocati oggi in questo giorno, in questo 18 di febbraio, 18° anniversario della presidenza Moratti e giorno della nascita del nuovo sito di Radio 24. 800 24 00 24 per dire quello che vi pare sportivamente parlando. Anche questo colpo di scena, doppietta di Balotelli, Moratti esonera se stesso, scrive un ascoltatore al 349 238 6666. Ma voi foste Moratti, amici interisti, in caso di sconfitta nel derby licenziereste Stramaccioni? Tanto da notare come i vincitori di tappa, non c'è dubbio, siano i Balotelli Boys, che con grande tempestività nella settimana del derby scavalcano l'Inter. Ci sei cascato, scemo? Tramo, io ti allenai che abbiamo il derby. Chi era questo? Stramaccioni, naturalmente. Tanto ieri dalle naghe che abbiamo il derby, la Juventus non ha il derby, ma stamattina ha fatto allenamento alle 8 e Conte dice: ma no, è normale, non è mica punitivo. Quando dobbiamo fare i test atletici ci si sveglia presto, chi ci crede? Bravo, poi sentiamo anche Conte che ha ritirato la panchina d'oro, poi sentiamo la top 3 delle dichiarazioni domenicali di allenatori e protagonisti del circo. Intanto aspetto voi, 800 24 00 24, per l'appunto Gianluca da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, mi sente? La sento bene, ma lo sa che Berlusconi ha già dato le indicazioni per il Barcellona? Per fare cosa? Di formazione, mi pare evidente, no? Cioè, giocano due punte e Messi è da marcare a uomo, proprio come quel giorno Zidane qualche anno fa. Berlusconi dà troppe indicazioni. Non voglio cadere in discorsi politici. No, infatti, quindi... infatti stiamo parlando di calcio. Quindi sì, no, parliamo di calcio che è meglio. Allora, io chiamo da Vicenza, sono un tifoso del Napoli, però sì, volevo parlare della partita Roma-Juve. Sì. È una bella partita, maschia, mi è piaciuta tanto, soprattutto il gol. Cioè, ragazzi, vi rendete conto, il pallone non ha girato. Un pallone, una traiettoria perfetta, vorrei parlare di questo, di questi splendidi gol. Sì. Poi fare gli auguri a Moratti. C'era dentro tutta la bellezza, immagino, e la frustrazione di un campione in quel pallone. Era una sberla che aveva dentro tutta la bellezza e la frustrazione di un campione come Totti. Stupendo. Fa gli auguri a Moratti per la presidenza? Per la presidenza, che immagino abbia regalato tante gioie ai tifosi interisti, anche se ha speso troppo, adesso in Italia non si può fare. E proprio di questo vorrei dire di lasciar stare il Napoli per la lotta a scudetto. Il Napoli non è da scudetto. Il tetto ingaggi del Napoli è molto basso rispetto a Milan, Juve, Inter, eccetera, eccetera. Sì. Quindi il secondo posto a noi ci starebbe benissimo. Sì, però se a Napoli si autocandidano dicendo che sono in corsa, come d'altra parte la classifica dimostra, poi però notiamo che se non la picchia dentro Cavani diventa difficile per tutti gli altri. Amsic ha preso un palo. Quindi Amsic ha preso un palo, un punto e una pistola puntata addosso. Come dicevo prima, sì, certamente c'è anche un po' di mala sorte, però la Sampdoria mi è piaciuta tantissimo. Sampdoria ammazza grandi, molto democraticamente, ha tolto punti un po' a tutti, Napoli compreso, ne ha tolti al Milan alla prima giornata addirittura. 3 ne ha tolti alla Juventus, 3 ne ha tolti al Napoli, e quindi molto democraticamente Robin Hood Sampdoria mette le sue frecce su chi vuole lo scudetto dintorni. Gianluca, grazie, troppo buono, complimenti per tutti, perfino gli auguri a Moratti per la presidenza. Siete così buoni oggi. 800 24 00 24, Pier Andrea da Como. Pronto, mi sente? Pronto, la sento. Ecco, da prima mi consenta di mi farle alcuni appunti, non se la prenda, ma il suo tipo di giornalismo mi fa tanto rimpiangere Sandro Ciotti e Paolo Valenti e Enrico Meri, perché veramente... Ho qualche anno in meno. Ho qualche anno in meno. Sì, ma appunto sia il suo tipo di giornalismo, poi diciamo anche la Domenica Sportiva, che ormai è diventata una brutta discoteca con quel genere gnocchi urlante, starnazzante, non ha nulla a che fare col giornalismo sportivo di qualche anno addietro, di cui tutti sentiamo la mancanza. Secondariamente vorrei far presente il mio sdegno per la panchina d'oro assegnato a Conte, che si dichiara uomo di sport quando è stato squalificato per quello che sappiamo, e insomma, e nessuno ne parla come dovrebbe, soprattutto a livello giornalistico. Io sono molto rattristato da questa cosa. Sì, questo è discutibile, cioè con un gesto più etico la panchina d'oro si poteva forse assegnare diversamente. Certamente sul campo Conte l'ha meritata, quindi se parliamo soltanto di questioni di campo non ci sono dubbi su questa panchina d'oro. Se parliamo di altre cose possono essere validi appunti come quelli che ha fatto lei, Pierandrea, da Como. Questa la regaliamo ai nostalgici. Io nostalgico non sono, e così ci sono stati grandi maestri, ma insomma i tempi avanzano, no? Corrono. E lo sport è un po' diverso, i protagonisti dello sport sono anche un po' diversi da quelli che erano 30 anni fa. Franco Prato, buongiorno. Buongiorno. Vuole anche lei che facciamo la domenica sportiva? La domenica sportiva? No, per carità, io ho metà 66 anni e l'ho vista tantissime volte, ma non la rimpiango. Magari rimpiango i miei anni, gli anni che avevo in quei tempi, questo sì. Certo. Senta, io sono uno sportivo che ama da sempre la viola. Ah, grande viola. Guardi Franco, la settimana scorsa, se ci ascolta, avrà sentito qualche telefonata di gente che già cominciava a fare la faccia strana, tifosi della Fiorentina cominciavano a fare la faccia strana, ma però questa squadra prometteva di più, adesso è in involuzione, eccetera eccetera. Mi sembra che ieri sia arrivata una risposta dopo un mese e mezzo di risultati controversi, di risultati anche negativi. E divento, quello che c'è ai fischietti, un po' contrario, no? Posso fare un commento? Certo. Senta, intanto vorrei, dato che ieri è stato dato un premio a un grande allenatore, secondo me, gli do il secondo premio, quello dell'antipatia, ma vorrei dare un premio alla curva di ieri sera, di Fiorentina-Inter. È il premio dell'ironia che certamente noi toscani, fiorentini in particolare, ci meritiamo. Quando abbiamo iniziato a cantare il pallone è quello giallo, il pallone è quello giallo, ha capito cosa significa? Sì, me la canti però. Il pallone è quello giallo, il pallone è quello giallo, perché i giocatori dell'Inter proprio non sapevano dov'era, non sapevano qual era. Non la strusciavano. È stata una cosa meravigliosa. Per quello poi che i miei amici simpatizzanti della viola hanno detto la scorsa settimana, io vorrei ricordargli che è un cantiere aperto, può darsi che ma un gran bel ci sia cantiere. Una partita che va un pochino male, per il gioco ce l'abbiamo sempre avuto e credo che la Fiorentina quest'anno sia in una situazione di classifica che nessuno, assolutamente nessuno, si sarebbe aspettato. Guardi, è lì da leggere, due punti dal terzo posto dopo un mese e mezzo storto, secondo me è un cantiere di quelli giusti. L'Inter invece mi pare un cantiere di quelli sbagliati, c'era Milito che puntellava di qua e di là, Samuel che Finaretto ha puntellato, ripeto, di qua e di là, adesso rimane un cantiere sbagliato. La Fiorentina invece mi sembra, per ragioni anagrafiche, di talento, di logiche, di ingegneristiche, ovviamente si sta parlando di calcio, di logiche ingegneristiche, mi sembra un cantiere aperto ma di quelli che funzionano, insomma. Allora, i ragazzi in regia vogliono la top 3, la volete anche voi, 800 24 00 24, le tre migliori dichiarazioni del weekend dello sport sul terzo gradino del podio, l'allenatore che ha preso la panchina d'oro, Antonio Conte. Volevo che mi dicessero chi non se la sentiva, ecco, nel senso che chi aveva un po' di stanchezza fisica, nervosa, dovuta al viaggio. Mi sono aperto alla squadra e nessuno si è tirato fuori, anzi erano tutti convinti e contenti di giocare, si sono sentiti tutti bene e quindi oggi, ripeto, non mi sento di imputarmi assolutamente niente nelle scelte, perché ho fatto una precisa domanda a tutti quanti. Conte non si imputa niente nelle scelte, a differenza di Stramaccioni che ha detto forse ho sbagliato i conti. Comunque, secondo gradino del podio c'è chi l'allenatore finalmente l'ha trovato dopo tanto peregrinare, se lo tiene stretto e dà una definizione di questo binomio Cairo, presidente del Torino. Ventura e il presidente Cairo in collegamento da Torino. Una coppia di fatto. A chi vi paragonereste come coppia, presidente Cairo? Chi vi viene in mente? Gianni e Pinotto. A coppia di fatto, Gianni e Pinotto. Vabbè, adesso tocca a Monsieur Preziosi, presidente del Genoa. Bravo, perché è stato un bravissimo, al di là del gol. Tra l'altro, ogni volta che segnava lui, gliel'ho detto, noi perdevamo, no? A Catania ha segnato lui e abbiamo perso. A Roma, con la Roma, ha segnato lui e abbiamo perso. Ho detto, oddio, ha segnato Cucica e mi sono un po' toccato. Questo era Monsieur Preziosi. Adesso ci fermiamo per la borsa e poi naturalmente vi aspetto. 800240024, convocati tutti qui su Radio 24. Come l'ha presa mia moglie, continua quando mi vede arrabbiato, continua a dirmi agghiacciante, quindi... Tutti convocati. Il pallone è quello giallo. Il pallone è quello giallo. Questo era il coro che si è alzato ieri dalla curva fiorentina quando l'Inter non se ne accorgeva che il pallone era quello giallo, dato che non lo strusciava mai, come dicono a Roma. Allora, prima delle vostre voci, che sono la cosa che più mi preme, prima di ricordarvi di nuovo che di andare a dare un'occhiata al nuovo sito di Radio 24, che secondo me è veramente molto bello, pieno di contenuti, contribuiremo anche voi, anche noi. Contribuirete anche voi, perché vogliamo mettervi in onda anche sul sito. Questa è una mia idea, oltre che vedere i vostri messaggi su Twitter, oltre che vedere i vostri SMS, eccetera eccetera. Allora, prima di parlare con voi, sentiamo Conte cosa ha detto stamattina su questa panchina d'oro che gli è stata data. Sì, assolutamente, veramente un bellissimo riconoscimento, proprio perché viene dai colleghi. Così come sono rimasto molto contento anche del premio AIC, no? Quello che è stato dato con le votazioni dei calciatori della Serie A, quindi sono contento. In un periodo che ho ricevuto questi due premi molto importanti, perché vengono sia dalla categoria allenatori che dalla categoria calciatori, quindi sicuramente un motivo di orgoglio e soddisfazione, un motivo in più per cercare sempre di migliorare. La panchina sua moglie l'ha già buttata da casa sua? Si è seduta lei oggi con mia figlia e poi anche col gatto, visto che è arrivata anche in famiglia un gatto. Eh sì, questa era un'altra panchina di qualche tempo fa, panchina per cui ci sono ascoltatori che dicono ma darla a Conte poi... Con i problemi che ha avuto con la giustizia, con questa squalifica, magari eticamente non era il caso. Non saprei, ditemi voi, eh? 800 24 00 24. Allora, prima di Giampaolo da Roma, che non so a che ora si è svegliato. A che ora si è svegliato Giampaolo stamattina? Giampaolo, dov'è? Dove stai, Giampaolo? No, Giampaolo da Roma si è riaddormentato. Franco da Pescara. Sì, buonasera, sergente. A che ora sei svegliato stamattina? Stamattina presto, perché sono dovuto andare a fare un'analisi del sangue. Analisi del sangue, quindi presto e senza colazione. Beh, però anche i giocatori della Juventus non si sono svegliati tardi, perché stamattina allenamento alle 8, come racconta... Domani mattina, scusatemi, perché oggi era la ritirata della panchina d'oro. Domani mattina si svegliano presto perché allenamento alle 8, ma mica per punizione, dice Conte. Sì, però è una sveglia presto normale, come è accaduto tante altre volte quando c'è la settimana in cui sottoponiamo gli atleti a dei test, sia di test clinici, cioè test di esami del sangue, quindi mattina presto, 8 per le 8, per le 9, e poi anche dei test in cui andiamo a controllare la condizione fisica da parte dei calciatori, quindi era già programmata. Secondo me è stato azzardato e sbagliato dire che c'è stata da parte mia una punizione, cioè non c'è da punire, io non ho da punire questi ragazzi per nessun motivo, anzi grazie a loro che oggi sono stato premiato, ho ricevuto questi premi, grazie a loro che ho vinto lo scudetto, quindi non c'è niente da punire, niente nessuno, assolutamente. Ecco. Sentito Franco, si sì. Svegliano presto per fare gli esami del sangue come lei. Dica. Niente, volevo aprire, diciamo, il mio intervento. Sì. Cioè, dato che io ho una relativa certa età, 72 anni, no? Sì. Allora, volevo sottolineare che apprezzo moltissimo la sua serietà professionale, la sua competitività, diciamo. Sì. Però quello che precede la trasmissione è durante, cioè l'apparato musicale, le musiche, questi interventi sono veramente caotici e veramente contrastano con il bacino d'utenza, che non riguarda semplicemente, diciamo, una popolazione trentenne, riguarda anche noi. Quindi queste musiche così insistenti, così che creano frastuono e non lasciano e non migliorano la qualità dell'audio degli interventi, anzi, cioè io per ascoltare con attenzione certi interventi ci metto fatica, perché l'apparato, diciamo, dell'audio sì. è complesso, è veramente caotico. È caotico, ho capito. Quindi dovrebbe essere migliorato, tenuto conto che non sono solo i trentenni che sentono. Certo. Facciamo un forum e vediamo, insomma, perché non ci sono solo i trentenni, però mi auguro che ci siano anche i trentenni e che ci siano magari anche i ventenni. Insomma, mi auguro che ci siano un po' tutti e con un po' di, come dire, di buon umore magari, o con un po' di, così, di fantasia, di abitudine magari, può essere che finisca per gradire anche lei, come io gradisco moltissimo queste sonorità che mi divertono molto. Vediamo Giampaolo, buongiorno. Buongiorno, eccomi. Mi piacciono le sonorità oppure no? Devo dire molto, molto. Se no andiamo tutti zitti e andiamo tutti zitti e andiamo lisci come in chiesa. Andiamo zitti come in chiesa e facciamo discussioni ecumeniche sul sacro pallone. No, infatti, benissimo così. Io invece vorrei fare, insomma, dire due cose. Sono, sì. insomma, chiamo da Roma, ma sono tifosissimo del Napoli. E sento che non si parla mai del progetto Napoli. Secondo me De Laurentiis a Napoli ha fatto cose eccezionali. Ha preso il Napoli che era fallito, in pochi anni l'ha portato alla ribalta del campionato italiano, quindi in Serie A. Ci ha fatto vivere momenti entusiasmanti anche in Europa. Nell'ultimo periodo no, perché ha preso sotto gamba l'Europa League sbagliando, perché insomma è un atteggiamento da provinciale. Però ha fatto cose importantissime. Adesso, lei prima sentivo che ha detto che il Napoli si è autocandidato al campionato. Io credo che Napoli sta lì, insomma, a 5 punti dalla Juve, con uno scontro diretto da giocare in casa. 4. E 4 punti. 4 punti. A 4 sta. Sì, perché uno ieri l'ha preso alla fine. Erano 5, se no, ne pigliava 3 era meglio, perché andava a meno 2, e invece ne ha pigliato 1, adesso sono 4, 55 contro 51. 55 contro 4, meglio ancora meglio, no? Certo. Per cui diciamo che si è autocandidato, ma in realtà, insomma, è la classifica che dice che Napoli sta lì e lotta per lo scudetto. Sì. Per cui, insomma, lei ha ragione. Dopodiché, l'ultima cosa, chiedo scusa, per Cavani dipendenti, che cosa si intende dire quando si parla di Cavani dipendenti? Cioè, è chiaro che il finalizzatore di una squadra deve essere l'attaccante. Sì, se l'attaccante non finalizza l'azione, non è, insomma, da un attaccante, insomma, di alto livello la squadra. Giampaolo, però anche le statistiche dicono che o segna Cavani o il Napoli fa fatica a vincere le partite. Direi che è quasi fisiologico, no? Ogni squadra dipende dalle sue stelle, quindi questo è quasi normale, è evidentemente un punto debole da rodare. Lei invece dice non parlate mai del progetto Napoli, ne parliamo tutti i giorni, tanto che siamo qui ad aspettare che il Napoli faccia questo benedetto grande salto, riuscendo a far capire a tutti che veramente c'è competizione con la Juventus. Io fino adesso questa competizione non la vedo, perché ieri è stata un'altra prova del fatto che quando insomma si cammina su vette molto alte e l'ossigeno è poco e i muscoli si induriscono e si diventa molto nervosi, e il Napoli in queste partite non è ancora probabilmente all'altezza di credere magari anche in se stesso, mancano un paio di centimetri forse per essere davvero grande. Dunque Oscar del gol, il più bello della settimana. And the Oscar goes to... Pjanic tenta la conclusione, poi arriva Totti, Francesco! Totti! 1-0! Non meritiamo quello che stiamo facendo. La squadra cerca sempre di scendere in campo per dare il massimo, per fare il meglio sia per noi stessi che per i tifosi, e purtroppo ultimamente non ci sta vincendo. Penso che adesso dobbiamo rimanere con i piedi per terra, goderci questa vittoria e pensare domenica dopo domenica. Poi le parole che ho detto in settimana penso che hanno fatto bene un po' tutti. Tu sei bravo, ma che bravo. Sei bravo, no. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io. Tu hai un dono. Te lo dico io, lo dice anche Rivera. Totti il miglior numero 10 degli ultimi 30 anni, ha detto oggi. Luigi, fedelissimo su Twitter, domani si sveglia alle 6.25 per fare allenamento in piscina, mica a correchiare per il campetto di Minovo. Sì, ma ognuno per i suoi fatti la mattina si sveglia presto, domani toccherà ai giocatori della Juventus. Mica nulla di strano. Alessandro Udine, buongiorno. Buongiorno, forse io adesso spiazzo tutti. Spiazzi ma chi volevo vuole. Chiedere. Spiazzo. Le metto il pallone sul dischetto. Che ogni tanto si dedicassero alcuni secondi, su ore dedicate al salto, a un campione vero. Si chiama Fabiano Caruana, classe 1993. Sì. Ora, oggi, è uno dei migliori giocatori di scacchi del mondo. Scacchi. Nella top 10. Perché gli scacchi sono uno sport olimpico, con tanto di 5 cerchi in anellati. Caruana oggi se la gioca con chiunque e raggiunge risultati stellari torneo dopo torneo. Dice tantissimo. Sono due secoli circa che l'Italia non era competitiva negli scacchi. Oggi abbiamo un vero campione, classe 1993, la stessa classe del miglior giocatore del mondo. E ogni tanto, diciamo 10-20 secondi, dedichiamoglieli. La saluto cordialmente. La saluto anch'io, e l'ha fatto lei, ha dedicato questo spazio a ricordare che abbiamo un campioncino di scacchi in casa, scacchi sport olimpico. Anche su questo ne avrei da dire, perché ho una mia idea, una mia teoria su tolgono la lotta, uno sport più antichi, e ci sono invece gli scacchi. Bah! Tutti convocati. Ciao direttore. Direttore Fabio Tamburini, io sono un operaio. Vi ricordo il nuovo sito 800240024 è il numero verde, il nuovo sito invece lo trovate su www.radio24.it. Vi garantisco che vi divertirete anche lì e anche con quello. Prato, Paolo da Prato condivide con spirito toscano i miei dubbi. Agli scacchi sono uno sport, c'è sempre da imparare. Allora ragazzi, deve essersi svegliato presto, considerata la faccia che aveva stamattina quando l'hanno intervistato. Stramaccioni presente alla cerimonia di consegna della panchina d'oro, e molto più stropicciato del solito per dire queste cose. Stropicciato in faccia, no, per il resto era a posto, però per dire queste cose. Ma il mio futuro è il futuro dell'Inter, nel senso, è normale che quando alleni l'Inter sei sempre sotto giudizio, e ormai l'ho imparato velocemente. Io credo che adesso quello che conti sia cancellare la partita di ieri sera e ritornare a fare subito bene. Abbiamo l'occasione, quale occasione migliore come il derby, per mettere in campo tutto quello che abbiamo e dimostrare che non siamo l'Inter, quella, che l'Inter non è quella di ieri sera, però c'è prima una partita di Europa League che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, anche perché molto di quello che abbiamo pagato in campionato l'abbiamo pagato per andare avanti in Europa League. Le colpe le abbiamo date, giriamo velocemente pagina, andiamo a fare il risultato in Romania e poi vinciamo il derby. E poi vinciamo il derby, è un parolone, poi vinciamo il derby. Intanto sono curioso di vedere quale formazione, quale Inter giocherà in Romania sul campo comunque di un Cluj che ha perso l'andata in maniera, forse quasi terminale, però rimane una seria squadra di pallone, quindi dato che Stramaccioni ha detto ho sbagliato io a far giocare gli stessi tre partite in tre giorni, adesso c'è il Cluj, poi c'è il derby, adesso vediamo se l'Inter va a giocare con le riservacce in Romania. Allora, ovviamente altri sport del weekend che noi non dimentichiamo mai e su cui vi invito sempre a intervenire: fine dei mondiali di sci, quindi il direttore tecnico dello sci Ravetto, poi Soldini e la sua impresa, e poi Chris Paul, protagonista e MVP soprattutto di un All-Star Game di basket, di cui adesso vi dico il risultato. Chi lo vuole vedere stasera si tappi le orecchie. 1, 2, 3, via. 143 a 138. L'Ovest vince lo Star Game e Chris Paul è MVP. Sentiamo. Per me è abbastanza positivo un mondiale da 6,5, poi chiaramente io parlo più per il settore maschile. Due medaglie erano il minimo, gli obiettivi minimi. Sono contento, due medaglie, una per le discipline tecniche, una per le discipline veloci. Forse si poteva fare qualcosa di più, è vero, anche solo oggi un'altra medaglietta ci stava con lo slalom. Manfred Merck che sta lasciando molto bene, Razzoli sta lasciando bene la prima manche, però diciamo che sono soddisfatto così, siamo stati competitivi praticamente in tutte le discipline, tranne forse che nel team event, che è una gara particolare dove proprio non riusciamo a neanche a far bella figura a questo punto. Il resto mi sembra che è andato abbastanza bene, ci sarà un'altra stagione, poi pronti per l'obiettivo vero che sono le prossime Olimpiadi. Abbiamo tagliato il Golden Bridge un quarto d'ora fa e stiamo per tagliare anche la seconda linea d'arrivo. E a questo punto abbiamo battuto il record e quindi siamo tutti molto contenti. Oh, I love it! Oh, my goodness! That seals it! Oh, my goodness, yeah, he's gotta be the MVP. That's your man. He has to be. Chris Paul is the most valuable player of the 2013 NBA All-Star Game. Quanto vorrei essere Soldini, quanto lo invidio, mamma mia. 800 24 00 24 per le vostre voci su tutto. Alessandro, provincia di Brindisi. Buongiorno signor Pienta, grazie di essere stato convocato, complimenti. Grazie Alessandro, grazie. Io ho telefonato per parlare della Juventus, su quello che hanno detto oggi riguardo il premio che ha ricevuto Conte, perché la Juventus, se si vede bene il proprio organico, non è, almeno sulla carta, non è all'altezza del Milan, della stessa Inter, forse anche della Fiorentina e del Napoli soprattutto. Scusi, non ho capito bene. No, aspetti un attimo. No, Alessandro, non ho capito bene. Cioè, secondo lei la Juventus è più debole del Milan, dell'Inter e della Fiorentina? In alcuni settori sì. Quali? Ecco perché dico, secondo me il valore aggiunto della Juventus è Conte, che riesce a dare quell'input in più. Sì. E poi volevo far notare il fallaccio di Totti che ha fatto il sabato. Fallaccio di Totti su Pirlo, che poteva meritare una sanzione più grave, e poi vediamo la partita. Sì, questo fallaccio di Totti fa bene a sottolinearlo. Poi l'ha spiegato lui molto bene, è arrivato in ritardo su Pirlo che ha spostato il pallone, ha fatto un fallo da difensoraccio, poi si è giustamente preoccupato per le condizioni del suo amico e compagno di nazionale per tante volte, Andrea Pirlo, reso conto anche lui del brutto fallo che aveva fatto. Ma non mi venga a raccontare che la Juventus è più debole con un organico dell'Inter, del Milan e della Fiorentina, perché a questo non ci credo. Bravo Conte ad aver messo insieme comunque una squadra vera, una squadra che ha tutte le sue componenti, cioè, però ragazzi, dal punto di vista organico non scherziamo. Flavio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. No, era alla domanda sull'eventuale esonero di Stramaccioni dopo ecco, Stramaccioni eventuale... perde il derby. Che facciamo? Faccia no, la faccia da Moratti e mi dica cosa farebbe. Vorrei fare una piccola premessa. L'avvocato Agnelli diceva che l'allenatore non incide più del 20% su una squadra di calcio. Sì, sono d'accordo. Io direi che oggi d'accordo. Un bravo allenatore può arrivare al 25%. Però le qualità di un allenatore sono il carisma assoluto e anche una buona capacità di comunicazione. Mi pare di capire che Stramaccioni ripete dopo queste sonore sconfitte, vedi Siena e vedi Fiorentina, sempre le stesse cose: non si ripeterà più la prossima partita, daremo il massimo e quant'altro. Secondo me è un po' succube di tutte le persone che hanno molto carisma nell'Inter e che sono anche un po' anzianotti, vedi Zanetti, Cambiassi e quant'altro, sì, gente che non più, ha coraggio gente più vecchia di lui che non ha coraggio di mettere fuori o di far allenare duramente come Cassano e quindi purtroppo ormai credo che il suo programma è un po' esaurito da questo punto di vista. Sì, qui entra in gioco la società, o lo sostieni o non lo sostieni, perché o hai una società forte alle spalle che dice signori questo è l'allenatore, le scelte sono sue insieme alle responsabilità. È chiaro che all'Inter lo hanno sperimentato allenatori con un'esperienza molto maggiore rispetto a Stramaccioni, ci sono alcune voci importanti. Poi non dimentichiamo che Stramaccioni si ritrova per le mani una squadra che in valore assoluto non mi pare valga poi moltissimo. Lorenzo Palermo, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, vi salvate? Come? Vi salvate? Tutto questo, vi ascolti, dottore, come mai una società come Palermo con le storie di società, un grande presidente come Zamparini, grandi giocatori abbiamo visto che sono passati e sono andati dalle grandi spalle. Perché questo Palermo adesso si trova in queste brutte acque? Ecco, e dove si perde questa acqua, dottore Pietro? Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei, Lorenzo. Non ho sentito benissimo purtroppo il suo intervento, però Palermo è vero che è andato a trovare grandi giocatori, poi li ha monetizzati, poi quelli che sono arrivati, soprattutto quest'anno, non sono all'altezza. Io credo che farà una fatica dannata a salvare le penne dalla retrocessione in questa stagione. Quindi questa è la mia idea. Però adesso ci fermiamo. Vi ricordo il nuovo sito di Radio 24, come ho fatto più volte, www.radio24.it, perché è qualcosa di davvero nuovo, davvero diverso. Quindi vi aspetto anche lì, oltre che domani pomeriggio dalle 14 alle 15. Franco Piantaneda, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Il pallone è quello giallo, il pallone è quello giallo. Ci sei cascato, scemo.